Salve cari visitatori e benvenuti alla mostra Noi siamo fuoco, viaggio al centro dei crateri. Io sono WeCast e oggi sarò la vostra guida in questo percorso che vi porterà alla scoperta di alcuni vulcani presenti sul nostro pianeta. Storie di uomini e di natura, storie di leggende e terre in tumulto. Ascoltate le voci di questi vulcani, lasciate che gli occhi si abituino al colore delle luci e che i vostri sensi si accendano. Accedete alla prima sala e iniziate il vostro viaggio con la prima storia sulla vostra sinistra. Avete presente quelle storie che vi racconta un parente durante le feste? Ecco, questa non è quel genere di storia. Anzi, sono pronto a scommettere che una storia così non ve l'hanno mai raccontata. Partirò dalla fine per dirvi cosa accadde al mondo negli anni 1600-1601. Anno 1601. Russia, Estonia, Lettonia, Germania, Svizzera, Francia furono coinvolte in quella che è stata definita piccola era glaciale, per cui un freddo anomalo mandò in malora gran parte dei campi coltivati e i laghi divennero piste su cui pattinare. In Cina, terra di peschi, i quali tardarono la fioritura, accadde la stessa cosa e il Giappone non poté che accodarsi alla tragedia. Ora, vi starete chiedendo cosa c'entra tutto ciò con me, non è vero? No, non sono uno storico e nemmeno un meteorologo. Sono solo un vulcano, in fondo. Ma attenti, perché se voglio, sono capace di darvi più di qualche grattacapo. Piuttosto, dove eravamo rimasti? Ah, sì, Perù, 17° giorno del mese di febbraio, anno 1600, ore 21 di venerdì, la terra cominciò a tremare. Gli Inca videro le proprie case crollare una dopo l'altra, al punto che molti decisero di passare la notte all'aperto, poiché le scosse continuarono fino al mattino seguente. Gli uomini pensarono al giorno del giudizio e cominciarono processioni per ringraziarsi gli dei. I più saggi scapparono. Al pomeriggio una nube nera oscurò il cielo e la cenere cadde sulla città. Fitta, intermittente, precipitò per tutto il giorno. Una vara, 8 pollici di sabbia e cenere ricoprì il terreno. Poi domenica, finalmente il boato! Fulmini e tuoni che fece passare in sordina qualsiasi lamento. Ci fu un prete spagnolo che, portando un Cristo in una mano e nell'altra una pietra con la quale si batteva il petto, camminò nudo per le strade, seguito da una gran folla cieca. Cieca perché l'oscurità era tale che neppure con le lanterne si riusciva a vedere a più di un palmo in lontananza. Ahimè, morirono oltre 1000 persone. Quanto a me, il magma che ardente e deciso colava dal cratere si riversò a sud nelle acque del rio Tambo e in poco tempo raggiunse a ovest l'oceano Pacifico, lasciando dietro di sé interi villaggi distrutti. E volete sapere una cosa? Non mi sono mai pentito. Come perché? Perché io li odiavo, gli Inca. Sono nato in queste terre, a 75 chilometri circa da Arequipa, a sud-est di Lima. Figlio delle Ande peruviane, amo la mia terra e l'ho sempre amata, prima ancora che gli Inca la popolassero. Ciò nonostante, con il tempo, ho imparato ad accettare la loro presenza e loro hanno accettato la mia. Non mi ero mai sentito così importante per qualcuno. Un bel giorno, però, quei maledetti colonizzatori penetrarono in Perù e il massacro perpetrato fu un vero strazio per me. Quando vidi poi che i miei amici Inca cominciarono sempre più a somigliare a quei diavoli, per la rabbia persi la testa e feci quello che ho fatto! Da allora, tutto il Sud America sa chi sono e mi teme. Anzi, lo sa tutto il mondo. E ora lo sai anche tu. Sempre in questa stanza, ascoltate il racconto sul lato opposto. Scendete, scendete, scendete, sprofondate nell'abisso. Ecco che ne arriva un altro e un altro ancora. Ce ne sono in abbondanza, carne fresca. Sì, si scorge la paura nei vostri occhi. Tremate, gemete, occhio a non sporgervi! Potreste cadere. Lamentarsi non servirà a nulla. L'oblio è qui. Accettate la fine. La dea sarà molto contenta. Quando non riceve i sacrifici, il mondo intero risente della sua tremenda ira. Il vostro è un gesto nobile. Andatene fieri. Tra pochi istanti ribollirete, alimenterete il mio fuoco, rinnoverete la mia anima fumante. Da innumerevoli anni non provavo una tale eccitazione. Un tempo tribù e sciamani accorrevano, mi portavano in dono le giovani carni delle loro fanciulle. Pinnacoli di lava si innalzavano, la dea era acquietata, tutto era in pace. Poi flotte armate approdarono sulle nostre sponde, invasero gli insediamenti, imposero la loro bislacca cultura, cancellarono la nostra. I tamburi cerimoniali smisero di suonare, quelli di guerra echeggiavano tra le foreste. Le vecchie tribù mi rispettavano, mi veneravano, ero il simbolo, il fulcro della loro spiritualità. Per i conquistadores, invece, rappresentavo solo un pezzo di roccia esanime. Ma la loro paura era palese. Stavano alla larga da me. I miei boati li terrorizzavano. Che bigotti! Dov'era finita la loro smania di potere? Dov'era finita la loro arroganza? Erano inermi al mio cospetto. I loro moschetti non li avrebbero aiutati. Gas soffocanti, colate di lava, terremoti. Sprigionai tutta la mia furia. Penetrai nella loro anima e così mi guadagnai l'appellativo di indemoniato. Credevano che il mio sacro cratere li potesse condurre nella regione oscura, fredda e crudele degli inferi. Un luogo profano che brulica di anime dannate. Non mi dispiaceva affatto essere temuto. Ma i sacrifici cessarono. La dea fu a lungo dimenticata. Cercò in molti modi di scacciare i sacrileghi europei, ma il suo potere si indebolì. Del resto, cos'è una dea priva del suo culto? Ma adesso riacquisterà il suo potere ancestrale. il suo spirito aleggerà tra gli alberi di queste foreste. Dunque, chi di voi sarà il primo? Forza, fatevi avanti, non rimanete lì impalati! Ma aspetta, voi non siete qui per morire. Voi non siete delle offerte. Ma allora che ci fate qua? Anche voi volete ridicolizzarmi? Anche voi volete dissacrarmi? No, non ve lo permetterò. Andate via! Andate via! Io mi chiamo Masaya. Ricordate solo questo e temetemi! Restate qui e godetevi questo momento tra leggende e immaginazione. Bene, ora potete entrare nella prossima sala. Seguite il percorso segnalato sul pavimento. Una volta entrati, la storia si trova sulla vostra destra. Salve, signori. Vi accolgo in queste terre all'orizzonte. Lo so, vi sembro sonnecchiante e avete ragione, perché ho imparato a godermi l'ospitalità di questi luoghi. I miei nipoti Maori mi definiscono un Wanau, un vecchio zio di famiglia. Mi rendono unico tra i miei fratelli per il mondo e li ringrazio per questo. Li sento battere il terreno sotto i piedi in danze per la paura, la morte, la guerra, ma anche per gioire e dare il loro benvenuto. Mi diverto molto a sentirli. Ogni tanto sposto la mia attenzione poco più su. Ascolto tranquillo le voci dei folletti che si nascondono tra gli alberi sulle mie spalle, aspettando che la neve e le nuvole mi accarezzino con l'arrivo della stagione fredda. Ho pochi motivi per scaldarmi. Riposo tranquillo adesso da più di 200 anni in questa distesa fino al mare, ma un tempo ero molto diverso. Un tempo, quando il mondo era giovane, ero parte di un leggendario gruppo di fuochi. Insieme a Tongariro, Ruapeue, Gauruoe, eravamo custodi di queste terre. Vivevamo in armonia, custodendo i segreti della creazione. Il mio amore per Pianga, una vetta vicina, era senza misura. In lei vedevo l'equilibrio e la perfezione che la creazione ci aveva donato. La nostra storia era pura, ma si sa che la purezza non dura per sempre. Un giorno, in un accesso di gelosia, Tongariro scatenò una furia infernale contro di me. Le fiamme ardenti, la lava rovente, tutto ciò che possedeva venne scagliato contro di me. Le viscere della terra si contorcevano in quello scontro. La battaglia aveva ritmi di morte. La terra tremava sotto di noi mentre i cieli si illuminavano di fulmini. Alla fine, spinto dalla furia, fui costretto a cedere il passo. Lasciai la mia amata Pianga, ma non la sofferenza per quella distanza. Il mio viaggio mutò ciò che ero, mutò ciò che era. Le mie lacrime di lava divennero fiumi. Camminai lontano, dando forma alle valli con il mio passaggio, finché trovai rifugio per il mio dolore e da allora mi sono stabilito qui, contemplando la mia antica dimora e la bellezza di Pianga da lontano. Il mio viaggio non è stato solo fisico, ma anche spirituale. Ho imparato l'umiltà, la forza interiore e la resilienza. L'amore che provavo per Pianga non è mai svanito, ma ora è un amore silenzioso, un'ammirazione da lontano. Sono Taranaki, il vulcano dal cuore antico, e porto con me la storia di un amore eterno. Ora potete dirigervi verso il lato opposto. Ah, che piacere vedervi. Prego, entrate. Che paesaggio mozzafiato, vero? Stranamente oggi non si avverte odore di gelsomino, di frangipane. È una fortuna, sapete? Di solito l'odore di questi fiori è presagio della presenza di un demone nei dintorni. Oh, che sbadato! Ho dimenticato di presentarmi. Sono il signor Brom, conosciuto da molti come Monte Brom. Capita spesso di perdermi nella contemplazione della natura. All'alba il sole lambisce lentamente il mio corpo e il dolce vento mi accarezza delicatamente. Il tutto dura pochi istanti, ma rende il mio risveglio gradevole e sereno. Vi va di farmi compagnia durante la colazione? Li vedete questi chicchi di riso? Vi svelo un segreto che in pochi sanno. Mi raccomando, siate discreti. Solitamente accade nel mese di giugno. Gli abitanti dei villaggi qui intorno, un po' per volta, iniziano a donarmi riso, frutta, grano. Ne ho in abbondanza. Attraversano intemperie e freddo. Si arrampicano con coraggio lungo il mio corpo. Qualcuno più garbato ed elegante si inchina e mi regala dei fiori. Osservare i loro occhi, stremati dalla fatica ma allo stesso tempo gioiosi, è davvero commovente. Vi starete chiedendo per quale assurdo motivo rischiano a tal punto la propria vita. C'è una faccenda che non vi ho raccontato. Da parecchi secoli ormai, vi sono delle divinità che alleggiano intorno a me. Mi proteggono e difendono. Nessuno lo aveva mai saputo, fin quando un giorno vidi avvicinarsi una coppia di giovani sposi. Si presentarono con gentilezza e mi raccontarono la loro storia. Erano la principessa Roro e il marito Gioco. Disperati, frustrati e rassegnati, mi spiegarono che dal loro amore non era ancora nato alcun figlio. Toccò così profondamente le corde del mio cuore da indurmi ad invocare l'aiuto degli dei. Stavo commettendo un sacrilegio. Le divinità avevano come unico compito quello di proteggere esclusivamente me. Pregai incessantemente. Sentivo il bisogno impellente di aiutare i due giovani. Dalle loro parole avevo percepito il forte desiderio di ricevere un fanciullo. D'un tratto si udì una voce suadente, profonda. Erano loro. Gli dèi accettarono la richiesta della coppia, ad una condizione: non un figlio, né due e neppure tre. Ben 25 pargoli avrebbero reso gioiose le giornate dei due sposi, ad eccezione di uno, l'ultimo. Ciò che si rivelò eclatante fu quello che dissero un attimo dopo. Il 25esimo doveva essere donato proprio a me. Rimasi stupito, incredulo. Ero convinto che i ragazzi non avessero mai acconsentito ad una richiesta del genere. Sacrificare anche solo uno di 25 figli significa vivere il resto della propria vita con una ferita nell'anima. Roro era afflitta dei dubbi. Gioco la abbracciò, le accarezzò la fronte e insieme, con voce stridula, accettarono la proposta degli dèi. Si sparse la voce tra i popoli dei villaggi. Danze, banchetti. Tutti mi acclamavano a voce alta. Io, Monte Bromo, ero divenuto un eroe. Donarmi qualcosa, rinunciare ad una parte del proprio raccolto, rappresentava un simbolo di prosperità e salute. E tuttora lo è ancora. Avrei ancora tanto da raccontarvi. Preferirei però vedervi da vicino. Magari all'alba. Voi ed io. Silenzio tutto intorno e storie che fluiscono lentamente nella brezza mattutina. Altre storie vi attendono. Seguendo il percorso, entrate nella stanza successiva e voltatevi verso sinistra. Oh, stelle, illuminatemi nel silenzio dell'oscurità. Rendete rovente il mio animo. Trasformatemi nel faro che lampeggia nel deserto di questa prateria. Cari signori, chiedo venia. Siete giunti in un momento molto delicato per me. Al termine di ogni giornata sono solito volgere il mio capo verso il cielo per invocare protezione e conforto alle mie stelle. Ma vi prego di accomodarvi qui, vicino a me. Non abbiate paura di avvicinarvi, sono di animo buono. Sì, è vero, il mio nome può trarre facilmente in inganno. Devil's Tower, Torre del Diavolo. Beh, in effetti, provoca anche in me un sentimento di agitazione e angoscia. Tutta colpa del colonnello Dodge. Venne qui nel 1875 ed ebbe una tale presunzione, ogni volta che ne parlo rabbrividisco dalla rabbia, da tradurre il mio nome originario, Matotipila, in Torre del Diavolo. Maledizione! Quale assurda congettura lo abbia condotto a tale conclusione? È un mistero che tuttora fatico a comprendere. Fatto sta che la corretta traduzione di Matotipila è Capanna dell'Orso, tutt'altra cosa rispetto a Devil's Tower. Ricordate che dalle mie parti tutti sanno bene quale sia il mio vero nome. Tante tribù sono fiorite intorno ai miei fianchi. Mi venerano, mi donano regali, pregano inginocchiati col volto all'insù, rivolto verso di me. Credete sia esagerato, eccessivo, smodato per un vulcano? La verità è che io non sono un semplice vulcano banale e scialbo. Non lo sarò mai. Le vedete le varie cicatrici che ho sui miei fianchi? Raccontano tutto su di me. Descrivono appieno l'importanza della mia esistenza. Sono segni tangibili del legame solido che unisce me alle varie tribù residenti nei dintorni. Sono nato per salvare una parte di loro, e di questo me ne saranno per sempre grati. La mia è una storia di forza, coraggio, sacrificio. Era ormai giunto il pomeriggio di una tranquilla giornata autunnale e sette fanciulle si divertivano con molta flemma tra i cespugli del fitto bosco qui accanto. D'un tratto videro una grossa ombra avvicinarsi con passo lento ma pesante, molto pesante. Le bambine, spaventate, iniziarono a correre. L'ombra si avvicinava con un passo sempre più veloce. Si voltarono e videro questo enorme orso con denti sporgenti. Erano disorientate. Invocarono il grande spirito che le condusse verso di me. Io non ero altro che una piccola roccia. Come potevo difenderle dal gigante marrone? Le bambine balzarono su di me ed io venni colto da un'improvvisa forza soprannaturale. Iniziai ad issarmi sempre più. L'orso si avvicinava con aria minacciosa. L'enorme belva si arrampicò sui miei fianchi, graffiandomi, sfregiandomi, ferendomi con i suoi artigli affilati. Avevo ormai raggiunto un'altezza inestimabile. L'orso si mostrava inferocito, lottava con le unghie e con i denti pur di raggiungere la cima del mio corpo. Sfinito, esausto, svigorito, cadde all'indietro esanime. Le fanciulle erano salve. Il grande spirito decise di ringraziarmi, trasformando le sette bambine nella costellazione delle Pleiadi. Da quel giorno, quando il rumore del mondo svanisce e sono colto dal silenzio dell'oscurità, so che esse vegliano su di me e mi accompagnano nel dolce sonno. Spostatevi ora verso il lato antistante. Ma sai, il capro, portatemelo, portatemi il capro, è il vostro Ngai che ve lo ordina. Saltate, ma sai, saltate fino al soffitto del mondo e giungete a me! Ogni volta che da una sponda del lago Natron un elefante, un bufalo o un condor prova a parlarmi, fatalmente la sua vita si chiude in un bozzolo di pietra per via delle bollenti salmastre acque. Tutto ciò che tocca quelle acque si mummifica e per questo motivo gli egizi di un tempo passavano di qui a raccogliere il sale affinché i corpi dei loro defunti potessero vivere nei secoli. Già. Vivere nei secoli. È proprio questa la mia condanna. A che vale vivere così a lungo, se la solitudine è l'unica amica? Certo, ci sono le nuvole di compagnia. Capita che mi metta ad ascoltarle, ma la maggior parte dei loro discorsi sono pettegolezzi. Una volta ne ho sentita una snella e rarefatta dire all'altra colma di bitorzoli che non aveva mai visto una lava come la mia. Se dovessi credere alle loro parole, tutti i vulcani avrebbero la lava di color simile a quello degli abiti dei Masai e nessuno all'infuori di me l'avrebbe bianca. Non so se credervi, lo ripeto, le nuvole sono pettegole, non bisogna dargli molto ascolto. Ma i Masai... Sì, quel popolo guerriero mi è stato sempre così fedele che adesso i loro giovani credono di poter fare a meno di me. Oh! Sento un ricordo ribollire dentro di me. Ecco che arriva la luce. Erano all'incirca 370.000 anni che non facevo che eruttare, osservare fenicotteri al tramonto alzarsi in volo con i propri figli, quando in una notte stellata un giovane guerriero Masai mi chiese di porre la vita nel grembo di sua moglie. Gli anziani Masai insegnano che nessuno deve calpestrare il mio suolo di notte se vuole fare ritorno a casa. Cosa avrei dovuto fare? Eppure quella sua insolenza era avvolta in una coperta d'oro che del suo cuore puro ne faceva uno scudo. Lo avvertì. Cosa avrei potuto fare allora? Il Masai era in lacrime e intonava lamenti la preghiera mentre il capro che aveva con sé mangiava dei ciuffi d'erba. Ed io, che mi sapevo ponderato e invulnerabile, in quel momento non so come scoppiai in un pianto che a parole non saprei dire. Forse fu tale la disperazione nelle sue lacrime e lo strazio del suo animo che, vedendo il mio occhio lacrimare, credette la sua preghiera accolta e il suo desiderio soddisfatto. O forse non ne poteva più del suo capro, di sua moglie e di me. Non l'ho mai più rivisto alle mie pendici. Fatto sta che le mie lacrime, la mia lava per i Masai, da che stillarono nere, simili al fango, al mattino erano diventate già bianche. Io sono l'Oldo Igno Lengai, il monte di Dio, e questa è solo una parte della mia storia. Di ciò che si sa è che ho voluto raccontarti. Se vuoi conoscere altro di me, vieni pure a trovarmi, ti aspetto, tanto io ho tempo. Vi aspetta l'ultimo passo che porta alla conclusione di questo viaggio. Seguite il percorso entrando nella sala finale e dirigetevi verso destra. Fornjutur, montagna nera, porta degli inferi. Ho avuto molti nomi da che ho vita. Ciascuno aggiungeva uno strato. Ciascuno raccontava una storia. Io sono l'antico custode delle terre islandesi e tante se ne sono dette su di me. Fermatevi e ascoltate la voce della montagna, la mia voce, e risuona con la forza dei millenni. Ero già qui prima che l'umanità camminasse su queste terre selvagge e incontaminate. La mia storia si intreccia di generazione in generazione. Corrono leggende su di me, storie narrate accanto al fuoco nelle fredde notti islandesi. Alcuni vociferano di un'antica credenza che mi vedeva come il cancello per il regno degli inferi. Si diceva che fossi la dimora di creature sovrannaturali e che le mie eruzioni fossero l'opera di spiriti oscuri. Il fuoco che eruttava dalla mia bocca veniva interpretato come l'ira dei demoni che tentavano di liberarsi dal mio ventre roccioso. Non posso dirvi se questo sia vero o meno, ma le streghe che silenziose ballano sulla mia bocca direbbero che non c'è dubbio. Bisogna venire sotto la mia ombra per essere certi. Le tribù native, i primi abitanti di queste terre, li consideravano sacro, con il rispetto dovuto a una divinità. Il mio nome portava con sé una venerazione per la mia maestosità e la mia imprevedibilità. Erano legati a me attraverso legami di rispetto e timore, offrendo preghiere e riti per calmare la mia furia, naturalmente le mie fiamme. Ogni mio sfogo portava con sé una storia nuova, fiumi di fuoco, fumo che oscurava il cielo e le ceneri che trasformavano anche la terra più rigogliosa in una landa pallida. Questo cambiava la vita e le storie delle genti che abitavano queste terre. Anche se la mia ira a volte danneggia il bello solamente da quassù visibile, come quei boschi di betulle e salici di cui tanto mi piaceva il profumo, non sono solo paure e terrore. La mia natura selvaggia, il mio aspetto imponente, era piena espressione della potenza della natura e della sua bellezza crudele. Io, l'Ecla, sono un'opera d'arte della terra stessa, una danza di fuoco e pietra che continua ad incantare e a suscitare meraviglia. Sono il custode dei segreti antichi di queste terre, la voce dell'Islanda selvaggia e misteriosa. La storia vivente incisa nei miei versanti di pietra e fuoco. Sono l'Ecla, il vulcano che parla attraverso le ere, narrando il passato e plasmando il futuro con ogni eruzione e ogni roccia scagliata. Ora voltatevi verso sinistra. Trasita, trasita, non va mattita scorna. Tanto io vi conosco uno ad uno. Saccio tutte cose voi. Ma voi non sapete niente me. Io per voi sono parte del panorama. Sono fisso, immutabile. Stocca. Per voi posso essere fatto di terra o di plastica. Non cagna niente. Sono un simbolo e rispetto a ciò che esso rappresenta. Bellezza, maestosità, ma anche suggestività, paura. Eh già, la paura ci sta sempre che io da un momento all'altro... Eh già, fa parte della mia natura, una natura contraddittoria. Pensate, verdi, floride, piene di vita sono le mie pendici, ma dentro di me solo metallo, fuoco, inquietudine. Io sono tante cose, sono un campo nel quale si scontrano forze opposte. Sono motore e distruttore, sono nascita e morte, sono immobile, ma mi trasformo continuamente. Ma voi non ve ne accorgete. Beh, come potreste? Siamo separati da un cratere, nel quale tutto ciò che entra si distrugge e muore, dal quale tutto ciò che esce, distruggendo, vive e fa nascere. Distruzione e nascita, l'incalzante ritornello che fa da sottofondo alla vita. Ed infatti così nacqui io, nella nuova forma, si capisce. Perché? Che vi credevate? Secondo voi cos'ero prima? Ero come voi, fatto di ossa, carne ed emozioni. Ma le emozioni presero il sopravvento e diventarono assai più forti del corpo, perché non erano emozioni semplici, non signore! Furono amore ed ira a trasformarmi, a distruggermi per poi ricrearmi. Esse sono il fuoco che mi alimenta. Fu un attimo. La pelle si sciolse, le ossa si fusero. Dolore, paura, caldo. Mi sentivo possente ma immobile. Bruciavo ma ero io il fuoco. La terra tremava, un frastuono! Poi il silenzio. Intorno a me solo distruzione. Intorno a me solo morte. E così crebbe il gigante che ora veglia sull'idilliaco golfo. Ma tutto ciò accadde per una ragione. Un amore spezzato. L'amore che provavo per la giovane Capri. L'isola che ancora oggi incanta tutti con la sua bellezza, un tempo era una bellissima uagliona, di famiglia nobile come me. E furono proprio le nostre famiglie ad opporsi alla nostra unione. Il nostro era un amore che andava oltre i vincoli familiari. Continuavamo a vederci, ma di nascosto, finché un giorno presi coraggio e chiesi la sua mano al padre, come di costume. Questo, in realtà, fece infuriare ancora di più la famiglia. E così decisero di allontanare Capri in terra straniera. Cercai in tutti i modi di impedire la sua partenza, ma non ci fu nulla da fare. La nave salpò. Io la osservavo da lontano. Le vele si spiegarono, il vento le gonfiava. Avevano preso il largo. Ormai era andata. Ma poi un tuffo. L'oscurità. La morte. Poi la furia. Lo strazio. Lo sapete già. Quel fuoco che arde è legato a un ricordo. Fin quando quel ricordo è vivo, non dovete avere paura, perché io distruggo ma creo. Io sono vita e sono morte. Io sono ira. Io sono amore. Io sono fuoco. Io sono Vesuvio. Siete giunti alla fine del vostro viaggio. Spero vi sia piaciuto. Ora potete recarvi verso l'uscita seguendo sempre il percorso indicato.